Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. La notizia si era sparsa in un baleno tra i frequentatori del caffè Tettamanzi. Nelle antiche stanzette, con gli specchi alle pareti e i divani foderati di velluto rosso, ora si parlava anche di politica, fra un 3-7 e l'altro, non perché fossero riapparsi i giovinastri mangiapreti con l'avanti in tasca, ma perché la guerra aveva avvicinato in qualche modo la città e arrivava l'eco di quel che avveniva a Sassari e a Cagliari, di certe nuove idee che fermentavano, la più strana di tutte quella di fare della Sardegna una repubblica separata dall'Italia. Maestro Manca diceva che bisognava nominare presidente Don Ricciotti e questi pensava che se veniva la repubblica cambiava le leggi e Loreneddu sarebbe potuto tornare finalmente nelle sue mani. Ma la notizia di quel giorno era soltanto questa, che dopo anni in cui viveva rattrappita su una poltrona era morta la zia di Pietro Catte e l'aveva lasciato erede di tutti i suoi beni, i quali consistevano nella casetta a due piani, due stanze sotto, due sopra, dove abitava, e in una terra aperta, cioè una striscia di pascolo non cintata che doveva essere un residuato stradale. Infatti, costeggiava la strada bianca di Locoi e i pastori erranti vi facevano entrare le pecore nella notte, un valore in complesso di 100.000 lire, con l'inflazione che la guerra aveva prodotto. Pietro Catte non si vide per una settimana al caffè Tettamanzi. Quando comparve aveva indosso un abito nero che con i soldi liquidi trovati in un cassetto della zia aveva ordinato a Carobbi, il sarto toscano che aveva tre lavoranti. In tutto quel lutto gli occhi strambi parevano più pronunciati, ma c'era da giurare che non avessero versato una lacrima. Zia Maria Antonia era del resto stata molto in forse se lasciare tutto il suo all'ospedale piuttosto che a quel nipote che non era riuscito ad andare al di là dell'alfabeto e si era fatto cacciare ignominiosamente dal posto di fattorino nella corriera. Poi aveva prevalso il ricordo di quell'unico suo fratello e forse un occulto sentimento materno. Francesco Casu, quello che non si sapeva come viveva, gli andò vicino e gli disse a voce alta: «Pietro, tua zia è morta e saluti a noi finché lei non ritorna. Ma ora che sei ricco, non rinnegherai i vecchi amici e ci offri da bere». Pietro fu un po' contrariato da questa confidenza, ma l'invito a bere non gli dispiacque, perché gli dava l'occasione di mostrare per la prima volta la sua mutata condizione. Tutti si affollarono intorno al banco ed egli a un certo punto tirò fuori dal panciotto uno scudo d'argento di quelli che la guerra aveva spazzato via, e tutti rimasero senza fiato. Egli intascò il resto con indifferenza e uscì dalla sala. Da quel giorno Pietro Catte non mancò mai una sera al caffè e partecipò anche al 3-7 con Bartolino e con Robertino Caramelli, ma si vedeva chiaramente che non era più lo stesso di prima, che l'improvvisa ricchezza aveva steso come un diaframma tra lui e la gente comune, della quale mal sopportava le beffe. Il demonio cominciava a sibilargli nelle orecchie. A differenza di Don Sebastiano, il quale diceva che ricco è solo il cimitero, Pietro andava in giro dicendo «io sono ricco» e tanto lo diceva che aveva finito col crearsi una specie di mito. Chi avrebbe detto che zia Maria Antonia avesse tanti soldi e non dovevano essere frottole, perché arrivava a dare una lira di elemosina a Poddanzu o a Dirripezza, quando tutti potevano vederlo. Pietro Ricco lo battezzò Peduzza in una delle sue canzoni blasfeme, invocando la sua intercessione presso il Signore. Insomma, Pietro Catte andava per le bocche di tutti, ma il guaio fu che a un certo punto, progredendo la follia, gli venne a noia il caffè Tettamanzi, gli venne a noia Bartolino, gli venne a noia la vita inutile dei nuresi e cominciò a concepire, ma era il diavolo che continuava a sibilare, un grandioso disegno. Un uomo come lui non poteva rimanere a Nuoro e la sua ricchezza non doveva restare inerte. La fama di Milano, dove i soldi si moltiplicano solo a guardarli, era arrivata fino a Nuoro. Là sarebbe andato. Avrebbe iniziato qualche buona impresa e dopo qualche anno sarebbe tornato con una di quelle automobili che cominciavano ad apparire anche in Sardegna e si sarebbe comprato una casa al corso e una tanca come quella che possedeva Don Pasqualino. Una sera, cominciava a calare l'autunno, bussò al portoncino di Don Sebastiano, che era stato compare di suo padre, e andò a offrirgli in vendita la casa e la terra aperta, tutta la sua eredità. Don Sebastiano si disponeva a leggere il giornale, ma ascoltò paziente i suoi progetti. «Tu vai cercando pane migliore di quello di grano», gli disse. «Le rondini lasciano il nido perché Dio le spinge. L'uomo che lascia la sua casa lo spinge il diavolo». Era la saggezza antica che parlava in lui, ma era anche la lettura del giornale che l'informava dell'inferno che in quelle lontane città aveva scatenato la guerra, senza contare che teneva Pietro Catte in concetto di un minus abens, come egli soleva dire. «Hai avuto la fortuna che la beata tua zia ti ha lasciato un tetto dove ripararti. Qui puoi trovarti un lavoro che ti dia da mangiare». Don Sebastiano sapeva che la follia è sempre in agguato e non aveva dimenticato che prima della guerra stava per vendere tutte le campagne per comprare pezzi di carta che oggi non avrebbero avuto quasi nessun valore. «Allora lei non è disposto a comprare?» chiese Pietro Catte. «No», rispose il notaio, «perché i tuoi beni non mi interessano e non voglio avere rimorsi». La casa e la terra furono vendute a uno che era tornato dalla guerra con un gruzzolo di denari e si diceva che avesse svaligiato un negozio nella ritirata. E così Pietro Catte si trovò nelle mani l'iperbolica somma di 100.000 lire in biglietti da 1.000 fiammanti. L'atto lo fece Don Sebastiano, che non alzò mai gli occhi dal tavolo mentre scriveva. Pietro Catte non era un emigrante. Era un uomo ricco che cercava un mondo degno per le sue imprese. Perciò viaggiava in seconda, tra i veri signori, ai quali non tardò a raccontare che aveva fatto una grossa eredità e aveva 100.000 lire in tasca. Tutti ascoltavano incuriositi il suo italiano balbettato, ma fu specialmente un signore, con gli occhiali a pince-nez, come allora si usavano, dall'aria molto distinta, che mostrò di prenderselo a cuore e gli chiese se a Milano aveva qualcuno che lo aspettava. Veramente no, non ci aveva pensato. E gli parve strano che avesse dimenticato una cosa così elementare con tutti quei continentali che erano venuti a Nuoro e frequentavano il caffè Tettamanzi. Ma non era nulla. Quel signore aveva un quartierino dove non andava mai. Volentieri glielo metteva a disposizione. Era a due passi dal Duomo. Pietro Catte assaporò questa gentilezza come il primo annuncio dell'Eldorado che lo aspettava. Ringraziò molto e trasse dalla valigia le casadinas che gli avevano regalato prima di partire e le offrì a tutti i presenti. Tutti ne assaggiavano e facevano le lodi di questo lontano paese che la guerra aveva rivelato con la brigata Sassari. Egli se ne ingozzò perché da 20 ore non mangiava, poi si addormentò rumorosamente tra i bisbigli ironici dei signori. Alla fine uno scossone lo svegliò tra un vociare disordinato come quello della festa del Redentore. Tutti scesero. L'uomo gentile si fermò un poco come cercando qualcosa. Quando furono soli, gli scrisse l'indirizzo della casa e gli diede una chiavetta. Entrasse pure, non c'era nessuno. L'indomani sarebbe venuto a salutarlo. Pieno di commozione, fece mentalmente il paragone con la presuntuosa ostilità di Don Sebastiano e si avviò con la valigia all'uscita, camminando a stento in quel mare di popolo che pareva sempre in festa. Sul piazzale Milano gli venne incontro come un'immensa muraglia che si andasse stringendo attorno a lui per soffocarlo. Per un momento, ma solo per un momento, pensò alla casetta della zia coi balconi fioriti che si era venduto. Anche l'aria era diversa da quella di Nuoro. Per fortuna gli si accostò una macchina gialla e il guidatore gli chiese se aveva bisogno di essere condotto in qualche posto. Trasse il biglietto con l'indirizzo e lo chauffeur, come allora si diceva, lo fece salire. Girarono come gente priva di meta, o almeno così gli parve, finché la macchina si fermò davanti a una casetta bassa, come allora c'erano ancora nel cuore di Milano. 20 lire, gli sembrò una cosa enorme, A Nuoro viveva un mese con 20 lire. Le 100.000 lire si impicciolivano, ma forse era stanco e si affrettò ad aprire. Nella prima stanza vide un divano, ci si buttò sopra e si addormentò profondamente. L'indomani mattina fu svegliato dalla presenza di un uomo nella camera. Si riscosse subito. Era il signore Gentile del treno. Ma come mai aveva dormito sul divano? Doveva prendere una doccia, farsi la barba? E poiché egli non aveva mai visto una doccia, il signore gli disse quel che doveva fare. Quella pioggia sul suo corpo tozzo, su quella faccia africana che si rifletteva nello specchio, lo riconciliò subito con Milano, col mondo. Il signore gli disse il suo nome, ingegner Ambrogio Fappala, e gli fissò un appuntamento per mezzogiorno in galleria. Avrebbero mangiato insieme al Savini. Ritrovò subito la sua euforia, uscì con passo sicuro e si avviò a caso per una delle infinite vie che gli si paravano davanti. I palazzi gli davano le vertigini, ma la busta dei soldi che tastava continuamente con la mano gli dava un senso di confidenza, come se egli non fosse estraneo a tanta grandezza. La gente si voltava a guardare quella strana figura di uomo selvatico, ma egli procedeva sicuro fino a quando non si trovò in un'immensa navata piena di gente variopinta, che a occhio giudicò che poteva contenere tutto il corso di Nuoro, coperta di vetri che scintillavano al sole. Si sentiva sempre più esaltato e padrone di sé. A un tratto gli giunse alle orecchie, in mezzo a quella calca, il suo nome. Si voltò stupito. Era l'ingegner Fappala che lo chiamava. Come aveva fatto a distinguerlo nella folla, non riusciva a capire. Era con un signore attempato che l'ingegnere si affrettò a presentargli, il dottor Rossi, un grosso industriale che voleva conoscerlo. Entrarono tutti al Savini per una porta che girava ininterrottamente e nella quale si impigliò. Dai mille specchi intorno gli veniva incontro la sua grottesca figura, quasi volesse arrestarlo nel fatale cammino. Bisogna però che io mi affretti, perché a questo punto colui che leggerà queste pagine avrà già capito tutto. Si trattava di uno dei soliti imbrogli che riempiono i giornali, ma con questa differenza rilevantissima: che l'imbrogliato era Pietro Catte. Forse se quei signori l'avessero saputo, non l'avrebbero fatto. Appena si rese conto dell'inganno, la terra cominciò a girare vertiginosamente intorno a lui. Nello spaventoso turbinio c'era un punto fermo soltanto, ed era Nuoro. Nuoro era la realtà nel mondo, e i suoi occhi bovini la fissavano, non vedevano altro. Era la realtà morale, il luogo e il giorno del giudizio, la coscienza che si è fissata nelle pietre e nelle persone. Tutto il male e il bene che fai, lo fai per Nuoro. Dovunque tu vada, Nuoro ti insegue, s'apposta come un brigante all'angolo della strada o come un esattore che vuole le sue gabelle. Tu vai cercando pane migliore di quello di grano. Le parole del vecchio notaio gli rombavano nelle orecchie, lo assordavano, gli impedivano di sentire il fragore della città per le cui strade brancolava come un cieco. A quest'ora Bartolino dà le carte per il 3-7 al caffè Tettamanzi, ma non si trattava solo dei vivi, di quei quattro pezzenti di San Pietro e di Seuna. C'era anche Sae Manca, il cimitero vigilato dal blocco di granito che raffigurava una donna in gramaglie. C'erano tutti i morti di tutte le generazioni che gli gridavano: Pietro Catte, che cosa hai fatto? E tra questi c'era zia Maria Antonia, che gli aveva lasciato la casa perché restasse custodita dalle sue fondamenta, non perché la portasse a Milano dentro un borsellino. Pietro Catte, Pietro Catte, Pietro Catte. Lo trovarono una mattina svenuto sui gradini di una chiesa, dove si era seduto coi piedi gonfi. Non seppe dire che cosa gli era avvenuto, perché non ricordava nulla. Vedeva soltanto una cosa bianca, allucinante, lontana. E verso quella cosa fu rimandato, non si sa se con un foglio di via o con i 4 soldi che gli erano rimasti nella tasca. A mezzanotte, i tuoni di Corrasi, del Supramonte, di Saserra, di Montalbano, dei 4 punti cardinali che si erano dati convegno sul corso di Nuoro, scoppiarono con un unico spaventoso fragore. Non riuscirono però a coprire il suono della campana di Santa Maria, che non si sapeva se battesse le ore o la lenta agonia su Tocco Pasau che annuncia la morte dei ricchi. Dalle botole aperte dei cieli la pioggia si rovesciava sulle case per sgretolarle. I nuoresi nascondevano il capo sotto le coperte pensando che la fine del mondo era venuta, e infatti era venuta. In cima al corso, là dove termina la strada di Orosei e del mare, si era fermata proprio nel punto dove c'era un tempo il chiosco di Tortorici, la corriera che porta la gente e la posta dal continente. Come fosse arrivata a quell'ora e con quel tempo nessuno poteva sapere. Il primo a scendere fu il guidatore. Era il diavolo in persona, con le corna e la barba aguzza e la coda ritorta, avvolto in un alone di fuoco sul quale sfrigolava l'acqua che cadeva dal cielo. Sostò un momento, poi trasse dal nulla un piffero e iniziò la discesa. Al lungo suono scesero dalla corriera Sassurbiles, le streghe che popolano le montagne del Gennargentu. Nessuno le ha mai viste, ma io posso assicurare che ci sono. Traghigni e sberleffi si misero appresso al diavolo, che insisteva nel cupo richiamo. E al richiamo scesero e si unirono al corteo 4 furie che ululavano e digrignavano i denti. Il vento rombava per il corso come dentro un immenso tubo. Le lampadine di Don Pasqualino saltavano come matte. Molte si infransero gettando il mondo nella tenebra. Come nei funerali dei ricchi, il corteo ebbe una sosta. Ed ecco che dal flauto uscì una nota lacerante, ma forse non era più un flauto, e a quella nota si vide calarsi di peso dalla corriera Pietro Catte, come se qualcuno l'avesse spinto. Di quello che era stato non restava che la testa di morto, l'occhio sempre più storto, le labbra tumide suggellate in una smorfia. L'abito nero lo chiudeva come in un sacco. I pantaloni si reggevano stretti da una cinghia al primo buco. Come un automa si mise in corteo e subito si formò uno spazio tra lui e gli altri che lo precedevano e lo seguivano, così che apparve quello che era il re della festa. Il diavolo, infatti, aveva buttato all'aria il flauto e camminando si era ficcato 2 dita in bocca di traverso come i pastori sardi, lanciando fischi acutissimi. Allora era accorso dalla corriera un gregge senza numero che non si sa come potesse contenerlo. Il primo fu Boelle, il morto più recente, che guardava la scena beffardo. Lo seguiva Fileddu, sempre fedele, con la giacca che gli penzolava dalle spalle scheletrite. Tutto il cimitero pareva essersi svuotato per seguire la processione. Zia Maria Antonia si trascinava sulle gambe e avrebbe voluto svoltare per rivedere la sua casetta, ma non era possibile. C'era Dirripezza, c'era Baliodda, c'erano anche scheletri importanti che si distinguevano dall'andatura solenne. Ma non c'erano solo morti, c'erano tutti i bettolieri di Nuoro, con la corte dei bevitori dai visi paonazzi, c'erano i giocatori di 3-7 e c'era sempre imponente Bartolino. Ultimo veniva Don Sebastiano, che spargeva grano sul lastricato del corso, e il grano subito cresceva e faceva la spiga. L'altra sosta fu davanti al caffè Tettamanzi. La violenza dei tuoni parve raddoppiarsi. Pietro Catte aprì un occhio e, quando vide i tavolini che come sempre erano rimasti fuori la notte, gli venne voglia di piangere. La pioggia cadeva a torrenti, ma cosa strana pareva che bagnasse solo lui, che tutti gli altri restassero immuni, all'asciutto. o forse era il sudore che gli colava dalla testa a ruscelli. Passarono il ponte di ferro, traversarono gli alberetti che il vento minacciava di sradicare, poi il quadrivio e poi la grande tanca di biscollai, quella che egli avrebbe acquistato quando sarebbe tornato da Milano, o un'altra equivalente. Sulla cima del colle c'era sempre la grande quercia sotto la quale tante volte il lunedì di Pasqua aveva fatto la merenda con zia Maria Antonia e gli amici del vicinato quando era piccolo. Pareva anzi cresciuta, diventata quasi smisurata, e man mano che la folle processione si avvicinava, l'uragano la spingeva nell'aria, come se dovesse strapparla alle radici secolari che abbracciavano la terra intorno, simili a vene. I vivi e i morti si posero in cerchio. Sas Surbiles e le furie intonarono un canto funebre, mentre Pietro Catte si avvicinava al tronco. Qui il diavolo lo afferrò, gli tolse la cinghia dai pantaloni, gliela avvolse al collo e poi volò su un ramo, dal quale lo fece penzolare con gli occhi sbarrati. L'alba cominciava a imbiancare il cielo quando un giovane pastore risuscitò le pecore che erano rimaste all'addiaccio e le sparse per la collina, dove ricominciarono a brucare tra il dondolio dei campani. Anche il ragazzo trasse dalla tasca un foglio di pane e un pezzo di formaggio e si avviò verso la quercia, dove avrebbe atteso che il sole si facesse alto per condurre le pecore alla prima mungitura. Il mattino, come succede in Sardegna quando cade l'estate, era lucido come il cristallo. Ogni filo d'erba era imperlato di quella buona rugiada che consola un poco della siccità. Come si avvicinò all'albero, vide il corpo penzolante e ondeggiante all'aria mattutina e ammutolì. Poi buttò via il pane e abbandonò le pecore e corse come un pazzo verso il paese che si risvegliava. Pietro Catte si è impiccato! Pietro Catte si è impiccato! Da tutte le finestre spuntarono teste scarmigliate. Pietro Catte si è impiccato! Allora cominciò la processione. Il pretore, i carabinieri, prete Laguzzi, ancora intontito dal vino, si misero dietro al pastore. Lo riconobbero tutti. Che fare? Che fare? Prete De Lussu sentenziò che era pazzo, e fu così che Pietro Catte, il quale aveva voluto cercare pane migliore di quello di grano, fu sepolto nella terra consacrata dove dormono o vegliano tutti gli altri onoresi.